giallo e nero di Daniele Biacchessi. 15 marzo 1972, Segrate, un piccolo paese alle porte di Milano. Il cadavere di un uomo alto, con i baffi, viene trovato su un traliccio ad alta tensione, quello che distribuisce corrente all'intera zona nord-est del capoluogo lombardo. I poliziotti che giungono sul luogo notano 43 candelotti di dinamite piazzati sul longherone centrale e tenuti insieme con nastro adesivo. Frugano nelle tasche del corpo ormai senza vita dell'uomo. Trovano una carta d'identità. Porta il nome falso di Vincenzo Maggioni. Passano 24 ore e l'uomo di Segrate viene identificato. È un nome importante della borghesia illuminata milanese. È Gian Giacomo Feltrinelli, editore. Da alcuni anni si è dato alla clandestinità senza che le forze dell'ordine lo stessero cercando. Feltrinelli, nome di battaglia Osvaldo. Il suo profilo nel racconto di Eleonora Barbieri. Figlio di ricchi imprenditori lombardi, combattente antifascista, militante politico e infine clandestino in epoca di pace, Gian Giacomo Feltrinelli nasce a Milano nel 1926. Dopo la Seconda Guerra Mondiale entra nel Partito Comunista Italiano e nel 1948 fonda la Biblioteca Feltrinelli, primo passo per la nascita, 6 anni dopo, dell'omonima casa editrice. Un'attività di editore segnata dall'impegno politico, con la pubblicazione di opere come Il Dottor Zivago di Boris Pasternak e dei principali autori latinoamericani. Nel 1964 Feltrinelli si reca a Cuba. Fidel Castro gli affida il diario in Bolivia di Che Guevara, che lui pubblica in Italia. E proprio in Bolivia Gian Giacomo viene arrestato nel 1967 per aver sostenuto la causa di Regis Debray. Dopo la strage di Piazza Fontana il 12 dicembre del 1969, Feltrinelli decide di rendersi irreperibile. La paura di un colpo di Stato da parte della destra lo spinge alla clandestinità e alla lotta con i gruppi armati partigiani, fino all'ultima corsa sul traliccio di Segrate. Gian Giacomo Feltrinelli muore nel 1972. I primi mesi di quell'anno sono segnati da una crisi politica senza precedenti. Tre governi nell'arco di soli 6 mesi. Il bilancio politico del 1972 è poco edificante. Prima l'esecutivo di centrosinistra guidato da Emilio Colombo. Dura invece solo 8 giorni il monocolore democristiano di Giulio Andreotti. Si andrà alle elezioni politiche il 7-8 maggio. La Democrazia Cristiana è sempre il primo partito, con il 38,7% delle preferenze. Il 26 giugno, Giulio Andreotti vara un governo sostenuto da DC, PLI, PSDI e l'appoggio esterno del PRI. Ma resta alto lo scontro politico all'interno dello scudo crociato. La crisi diventerà profonda nel 1973, quando Andreotti dovrà abbandonare per fare posto al vicentino Mariano Runova, già ministro dell'interno nel 1969. Il 1972 è anche l'anno della violenza di piazza, dell'attività dei primi gruppi della lotta armata, in particolare delle Brigate Rosse. Il 3 marzo le Brigate Rosse sequestrano Idalgo Macchiarini, ingegnere alla SIT Siemens. Il gruppo non è nuovo ad azioni eclatanti. Bombe contro le auto di dirigenti delle grandi aziende del nord, sequestri lampo di sindacalisti della CISNAL e direttori del personale Fiat. Il procuratore generale di Torino, Giancarlo Caselli, era uno degli investigatori che seguiva le piste del terrorismo brigatista. Per quanto riguarda le Brigate Rosse c'è in giro molta confusione, molta incertezza, molta ambiguità. Le Brigate Rosse sono ancora Zorro, Robin Hood, compagni che sbagliano, ma questa ambiguità, questa incertezza fa sì che abbiano indubbiamente dei referenti in un certo strato intellettuale e in modo particolare in certi ambienti di fabbrica. Ai tempi del sequestro di Idalgo Macchiarini, le BR erano agli albori della loro storia. era iniziata mesi prima, con la scelta del simbolo, una stella a cinque punte, come ricorda uno dei fondatori dell'organizzazione, Alberto Franceschini. Praticamente ci ponevamo il problema di trovare anche lì un simbolo che, come il termine Brigate Rosse, ci riconducesse ad una storia, a questo punto ad una storia internazionale. Allora, la prima cosa che ci venne in mente era la stella, perché ad esempio i vietnamiti avevano la stella, i Tupamaros avevano la stella, ecco, per cui la stella, poi in particolare la stella dei Tupamaros, che era molto simile alla nostra, con al centro però MNT, Movimento Nazionale Tupamaros. Noi a questo punto prendemmo la stella, cercavamo io e Renato di disegnarla così, e ci veniva sempre una stella sghimbescia, non riusciva mai a fare una stella perfetta. Poi alla fine abbiamo detto, vabbè, però sghimbescia ci sembra, e la disegnavamo appunto con 100 lire, cioè volevamo fare una cosa che potesse essere disegnabile da tutti, questo perché la nostra idea all'inizio era molto spontaneista, quella di essere noi dicevamo appunto la scintilla che infiamma la prateria. E l'incendio della prateria, come sostiene Alberto Franceschini, stava già avvenendo nelle piazze e nelle strade del nostro paese. L'11 marzo 1972 si scatena per 9 ore la guerriglia urbana a Milano. In Piazza Castello c'è il comizio del Movimento Sociale Italia. Sul palco parla l'allora giovane dirigente della Fronte della Gioventù, Ignazio La Russa, futuro leader di Alleanza Nazionale. Il comunismo non passerà! Il comunismo non passerà! Il Fronte della Gioventù non si limita a partecipare alle manifestazioni anticomuniste. Il Fronte della Gioventù è ogni giorno, e ogni ora, e ogni istante in prima linea nella battaglia al comunismo. E lo testimonia Gino Marco, ferito quasi a morte dai comunisti. Intanto, gruppi della sinistra extraparlamentare mettono a ferro e fuoco le vie del centro. Un candelotto sparato ad altezza uomo dalla polizia uccide il pensionato Giuseppe Tavecchio nei pressi del teatro alla Scala. Giacomo Feltrinelli è un militante dei GAP. Vive da mesi in clandestinità senza che la magistratura avesse spiccato contro di lui alcun mandato di cattura. Organizza i gruppi di azione partigiana. Intorno all'editore ruotano pochi militanti, realizzano azioni di disturbo sui canali di trasmissione della RAI, attentati dinamitati contro tralicci dell'alta tensione nel nord del paese. Ma la clandestinità è vita dura anche per un editore, come ricorda Tonino Paroli, uno dei fondatori del gruppo reggiano delle Brigate Rosse. La mia vita di clandestino, quel periodo lì, era un po' abbastanza dura, per quanto mi riguarda, per me, questo caso qua. Era dura per due motivi, per tanti motivi. Il primo, appunto, mi trovavo in una città che non era... Non ero cresciuto lì, per cui ero un po' come un extracomunitario, cioè un emigrato, una persona che si sposta e deve affrontare tutto, sia come parli, sia come ti atteggi, sia come situazione. Poi c'era un problema anche di carattere, cioè vivere clandestinamente, girare con una pistola, con documenti falsi. Quando se vai a portare la biancheria, le lenzuola e la lavanderia, deve dare non il documento falso che è ufficialmente sei in casa, un altro ancora, perché metti che per una cosa o un'altra, cioè tutta una confusione anche di nomi, avevo 5-6 nomi praticamente che utilizzavo per fare delle cose, persino nell'edicola, non comprare tutti i giornali lì, qualcuno si soschia e compra il giornale, 5-6 giornali politici, uno che si interessa del politico, per cui anche quello lì poteva diventare un punto vulnerabile, so per dirti, no? Allora prestavi attenzione anche a quello lì, prendavi due giornali dall'edicola e due altri. Pochi giorni dopo, al cimitero monumentale di Milano, i funerali pubblici di Gian Giacomo Feltrinelli si trasformano in una manifestazione politica con bandiere rosse, pugni chiusi, il canto corale dell'Internazionale. Il giornale Potere Operaio esce con un'edizione straordinaria. Lo dipingono ora come un isolato, come un avventuriero, come un deficiente o come un crudele terrorista. Noi sappiamo che dopo aver distrutto la vita del compagno Feltrinelli, ne vogliono infrangere e seppellire la memoria, come si fa con i parti mostruosi. Sì, perché Feltrinelli ha tradito i padroni, ha tradito i riformisti. Per questo tradimento è per noi un compagno. Per questo tradimento, i nostri compagni delle organizzazioni rivoluzionarie, gli operai di avanguardia chinano le bandiere rosse in segno di lutto per la sua morte. Un rivoluzionario è caduto. La notizia della morte di Gian Giacomo Feltrinelli compie subito il giro del mondo. Lui è un editore importante, conosciuto negli Stati Uniti, in Centro e Sud America, in Europa. Carlo Feltrinelli ricorda così il padre. Credo che sia un caso unico di una persona che aveva tutto, aveva disponibilità economiche, agende internazionali, prestigio, un lavoro, eccetera, di mettere in gioco tutto per delle convinzioni, diciamo, politiche e ideali, no? Che credo che Feltrinelli avesse, che in fondo l'hanno reso così, una figura così, così assolutamente strana e anche indecifrabile. Gian Giacomo Feltrinelli è dunque un imprenditore affermato, stimato, ma è ossessionato in quei giorni dalla possibilità che in Italia forze oscure potessero progettare un colpo di Stato militare. Era già accaduto in Grecia nel 1967, come rileva il figlio Carlo. Ricordo che, diciamo, la grande ossessione in qualche modo di Feltrinelli di quegli anni era che ci fosse in Italia un'involuzione antidemocratica, un regime, diciamo, di destra, come era successo in Grecia nel 67. E rispetto a questa prospettiva lui pensava che bisognasse prepararsi anche, diciamo, in termini militari per rispondere a un colpo di Stato di destra. Allora, oggi si può dire, è vero, l'Italia non era la Grecia, le dinamiche politiche sono state diverse, anche se noi tutti sappiamo che i rischi che l'Italia facesse quella fine sono stati dei rischi estremamente concreti. Ma io credo che il grande sbaglio suo sia stato quello di pensare che la mediazione culturale, la mediazione dei libri, del suo mestiere non fosse più sufficiente e ci fosse bisogno solo della militanza, della partecipazione politica. In verità, appunto, lui come dal punto di vista politico ha perso, sono stati momenti anche di scarsa lucidità, proprio perché erano anni estremamente precipitati e tesi e, come posso dire, frenetici, mentre come editore aveva vinto e poteva forse vincere ancora. Dopo la viabilità e il racconto del giallo e nero su Gian Giacomo Feltrinelli. Giallo e nero di Daniele Biacchessi. Marzo 1972, poche ore dopo la morte dell'editore Gian Giacomo Feltrinelli. Il gruppo della sinistra extraparlamentare Potere Operaio offre la sua versione sui fatti di Segrate. Feltrinelli da vivo era dei GAP, gruppi armati proletari. è stato ucciso perché era un militante di quell'organizzazione. Siamo sicuri che Feltrinelli è stato ucciso perché un traliccio è un obiettivo troppo interclassista. L'uccisione di Feltrinelli appare evidentemente opera di tecnici specializzati in queste operazioni di eliminazione. Ma le cose non stanno proprio così. Le Brigate Rosse vogliono sapere come sono andate le cose quella sera a Segrate. Muovono un'inchiesta che collima con la ricostruzione effettuata da Gunther, un compagno di Feltrinelli, al settimanale L'Espresso. Nel novembre 74, la polizia trova un nastro magnetico nella base brigatista di Robbiano di Meriglia. Sente chiara e forte la voce di Gunther a raccontare ciò che ha visto la sera del 15 marzo del 72. All'inizio, Osvaldo, ai candelotti di dinamite della carica che serviva a far saltare il lungherone centrale in mezzo alle gambe. Si trova impacciato nella posizione in preca. Sposta i candelotti, probabilmente sotto la gamba sinistra, e seduto con i candelotti sotto la gamba, in modo che li tiene fermi, sembra che prepari un innesco, cioè il congegno dello scoppio. È in questo momento che quello a mezz'aria sul traliccio sente uno scoppio fortissimo. Guarda verso l'alto e non vede nulla. Guarda verso il basso e vede Osvaldo a terra, rantolante. La sua impressione immediata è che abbia perso le gambe. Va da lui e gli dice: «Osvaldo, Osvaldo!» Non c'è. È scoppiato. Ma chi è in realtà Gian Giacomo Feltrinelli, nome di battaglia Osvaldo? Come si muove nell'arcipelago della lotta armata di sinistra nei primi anni 70? Alberto Franceschini, fondatore delle Brigate Rosse, traccia un suo ritratto nel libro Io, Renato e Mara. Feltrinelli continuava a proporci dei finanziamenti. Renato Curcio ed io ci incontravamo con lui una volta alla settimana ai giardini di Parco Sempione. Dovevamo fingere di non sapere che era Feltrinelli. Per noi doveva essere solo Osvaldo, un militante dei GAP, ed anche se lo conoscevamo dai tempi del movimento di Trento, stare al gioco era obbligatorio. Parlava sempre lui, seduto su una panchina, le gambe allungate, le mani in tasca, lo sguardo al cielo come se cercasse un'ispirazione. Ci sommergeva di discorsi sulla strategia rivoluzionaria, la struttura dell'esercito proletario, l'Unione Sovietica e il suo ruolo guida. La sua idea di far saltare i tralicci dell'alta tensione in montagna per colpire l'Enel e Fanfani ci sembrava quantomeno stravagante. Accordi con Osvaldo, Feltrinelli, erano impossibili. Carlo Rossella, nei primi anni 70, era un giornalista attento alle vicende legate al terrorismo politico. È stato uno dei primi cronisti a raggiungere Segrate, nelle ore successive la morte dell'editore Gian Giacomo Feltrinelli. Era un clima, devo dire, terribile. C'era una Milano in preda alle bande terroristiche, venivano assaltate le banche, le rapine in banca, giravano i comunicati delle Brigate Rosse sulle mura della Pirelli, della Siemens, delle grandi fabbriche, c'erano le stelle a cinque punte della Brigate Rosse, non parliamo di Torino, c'erano stati dei sequestri, c'era stato il sequestro Macchiarini, c'erano stati altri sequestri, quindi era un clima... anni di piombo, così come furono definiti quegli anni. Io mi ricordo perfettamente, perché allora ero cronista e dirigevo il gruppo investigativo di Panorama e mi ero occupato di queste cose, mi ero occupato anche del caso Feltrinelli, quella giornata stampata nella mia mente. Ero al congresso del Partito Comunista, allora io ero un militante del Partito Comunista, e arrivò la notizia che avevano trovato questo cadavere sotto un traliccio, e nessuno pensò a Feltrinelli. Ecco, si sapeva che Feltrinelli aveva attività di carattere, diciamo, guerrigliero, ma nessuno pensò a Feltrinelli. Poi a poco a poco la notizia cominciò a trapelare, anche perché la squadra politica della questura calabresi fu il primo a pensare che si potesse trattare di Feltrinelli. Allora si iniziarono le indagini. A Milano c'era dalla Chiesa, c'era il capitano Delfino che era in carico delle indagini, e allora si cominciò a pensare a Feltrinelli. Cominciarono a disegnare gli investigatori baffi sulla fotografia di Feltrinelli, sulla fotografia di quell'uomo che era stato, sui documenti abbandonati da quell'uomo. Nella fotografia Feltrinelli non aveva i baffi, e in questura, mettendo i baffi, scoprirono che poteva essere Feltrinelli, dopodiché fu scoperto davvero che era Feltrinelli. Quando venne fuori la notizia ci fu un certo sconcerto, una certa rabbia, perché gettava sulla sinistra milanese un'ombra non certo bella, e quindi si discusse molto, se ne parlò molto, i giornali scrissero moltissimo. Ci sono esemplari articoli di allora di Giampaolo Pansa. Noi trovammo in esclusiva la foto di Feltrinelli sotto il traliccio e la pubblicammo in prima pagina, ed era la foto di un uomo con una faccia devastata. Fu una delle prime foto, diciamo, macabre pubblicate sui giornali, ma era giusto, ritenemmo giusto pubblicarla. Termine di questo racconto restano le parole di Carlo Feltrinelli. Ricorda il padre come un pioniere, un precursore delle più moderne innovazioni della comunicazione culturale, ma le sue utopie si sono disintegrate sopra un traliccio di alta tensione a Segrate, alle porte di Milano. Io credo che, diciamo, al di là dei diversi pezzi della vita di Gian Giacomo, mio padre, una cosa sia chiara, che è stato un grande appassionato, innovatore e creatore di idee e di opportunità per quanto riguarda l'editoria, sia in termini di collane, sia in termini di librerie, sia in termini di modi di promuovere i libri, sia in termini di modi di vendere i libri. Quindi, diciamo, questa è stata la cosa su cui lui ha vinto la sua battaglia, no? Di sprovincializzare questo paese, di collegarlo alle realtà più vive dal punto di vista internazionale. Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dviacchessi@radio24.it.